Alma. Ogni venerdì alle 21 su Radio Alma. Buonasera cari amici di Radio Alma e benvenuti ad una nuova puntata di I Colori dell'Anima, che ogni lunedì sera, come sapete, vi accompagna dalle 21 alle 22 e prova a parlarvi al cuore. In regia stasera c'è sottoscritto Roland e con me una, come saprete fra poco, una ospite molto speciale che ci parlerà delle sue esperienze molto personali e molto belle, molto profonde, e veramente non vediamo l'ora di approfondire. Chi non c'è con noi stasera è Donatella, che salutiamo con affetto, speriamo che nella prossima puntata potrà di nuovo esserci. E come ho detto, stasera proviamo ad approfondire l'esperienza personale e spirituale della nostra ospite, e facendo la nostra puntata si colora di rosa d'avorio. Perché? Perché rosa d'avorio come la capasanta o conchiglia di San Giacomo. Questa conchiglia è il simbolo del pellegrinaggio nella città di Santiago de Compostela, e la nostra ospite se ne intende di questa città e il cammino. Il pellegrino nel corso dei secoli ha da sempre raccolto sulle spiagge galiziane e sulla costa di Finisterra le conchiglie di San Giacomo di Compostela. La conchiglia di San Giacomo doveva essere cucita sul mantello, sul cappello, ed era l'indicazione o il simbolo da mostrare a tutti che il pellegrino aveva raggiunto e visitato la tomba di San Giacomo, nella lontanissima e verdeggiante regione della Galizia, nella penisola iberica. Ma, come ho detto, questo cammino, il cammino di Santiago, per la nostra ospite non ha segreti, e è molto meglio che ci parla lei di questo cammino. Buonasera Tiziana e benvenuti ai Colori dell'Anima. Buonasera Roland. Ecco, Tiziana è una ragazza belga ma italiana. Sì. Come ti definiresti tu? Beh, un po' di tutti i paesi sarebbe... Beh, sono di origine veneta. Di origine veneta, sì. Ah. Invece cresciuta in Belgio, giusto? Sì, sono nipote di immigrati, dunque portiamo un po' di luce italiana in Belgio, diciamo così. Ottimo, ottimo. E Tiziana, per sì. Incominciare il cammino, cioè per te abbiamo detto il cammino di Santiago non ha segreti, e per incominciare il cammino di stasera, diciamo, potresti dirmi quando sei venuta per la prima volta a contatto con questo pellegrinaggio? Beh, diciamo che è un po' l'avventura della vita che mi ha portato a pensare a Santiago. Sarebbe che, bisogna dirlo, ho lasciato il mio ragazzo dopo 10 anni di coppia. Mm-hmm. Allora, tornando dai genitori, mi sono detta, adesso bisogna riniziare tutto, tutti i progetti sono andati a monte, bisogna che inizio la mia vita su delle basi nuove. Avevo sentito parlare di questo cammino e mi sono detta, siccome ho bisogno di distanza, ho anche bisogno di stare un po' lontana di tutte le cose, bisogno di fare il vuoto, di ritrovarmi me stessa per vedere meglio le basi della mia vita, per vedere in che direzione posso andare, e anche, avevo dimenticato anche Dio per un paio di tempo, allora mi sono detta, questo sarebbe ottimo di fare quel cammino, che è un cammino di riflessione, che uh-huh. È ritornare in contatto con se stesso. Ecco, e dopo, insomma, prima ci hai pensato e poi hai messo in atto, com'è andata? Raccontaci un po' questa tua esperienza. Beh, fu un'avventura incredibile, come tutti i cammini di Santiago, il cammino di ognuno è sempre incredibile. Allora, dunque, dall'inizio, ecco. Allora, dunque, prima mi ero allenata su un pezzo di cammino, perché bisogna sapere che il cammino ufficiale che tutti conoscono è il cammino francese, mm-hmm. che inizia da Saint-Jean-Pied-de-Port. Però questo la gente non sa sempre che i cammini non iniziano a Saint-Jean-Pied-de-Port, iniziano per tutta Europa, mm-hmm. iniziano anche in Norvegia, che questo è il più lontano. Bisogna solo, è come un gioco, bisogna solo seguire le conchiglie. Ecco, le conchiglie di San Giacomo, come sì. abbiamo detto, che si trovano, ecco. Tra l'altro questo weekend, già con in mente questa puntata, sì. mi trovavo nel centro di Bruxelles, sì. e infatti mi sono trovato... questa bella conchiglia per terra, che insomma se li segui arrivi a Santiago. Ecco, appunto, è una cosa incredibile, perché quelle conchiglie sono ovunque. Mm-hmm. Sono in Bruxelles, sono magari a, beh, ci sono certe città dove si può seguire i cammini. Mm-hmm. Però ci sono anche dei paesini piccolini dove ci sono indicazioni per andare per le vie di Santiago. E come avevo fatto da Aix-la-Chapelle fino a Namur, perché mi sono allenata, si chiama la Via Mosana. Uh-huh. Allora, dunque, sono andata sulla Via Mosana di Aix-la-Chapelle fino a Namur. Ok, è un bel pezzettino, ma niente nei confronti del vero cammino che poi avresti affrontato. Allora, finalmente ho fatto questo allenamento e ho vissuto una cosa assolutamente incredibile, che ho incontrato una spagnola che si chiama Esther, che è una ragazza che mi ha imparato tantissime cose sulla vita. Uh-huh. E Esther, abbiamo camminato insieme e lei mi ha imparato tantissime cose positive, perché bisogna sapere che su quel cammino la gente che lo fa ha delle ragioni, ognuno ha le sue ragioni. Parliamo, l'hai detto proprio bene, ognuno ha le sue ragioni, ovviamente una volta il cammino aveva un altro senso e si è un po' evoluto e dopo, più tardi nella puntata ci parliamo un po', c'è l'esperienza spirituale, c'è anche il trekking, diciamo l'esercizio fisico, e insomma quali sono, come l'hai vissuto tu e come l'hai visto magari in altri pellegrini che hai incontrato, quali sono le ragioni per fare il cammino? Questa fu la mia grande inchiesta, proprio. Perché parlando con la gente ho capito che quella gente, quando sono a casa, non sono sportivi per niente. Uh-huh. Quella gente, per andare a fare, non so, le compere al negozio che si trova solo a 3 km, magari prendono anche l'auto. Ai ai ai, una cosa poco ecologica. E dunque, appunto, fu la mia grande inchiesta personale, perché cosa passerà in mente a quella gente di fare 800 km a piedi d'un tratto? E che risposta ti sei data? Ho incontrato, ho parlato un po' con quella gente, vedere il suo vissuto. Mm-hmm. E gente che ha sentito come una specie di chiamata, non una chiamata, forse una chiamata di Dio, questo non lo so. Non sul cellulare, ma comunque una chiamata. Ecco, appunto. E dunque, è gente che la vita gli mostra un giorno che ha bisogno di prendere della distanza. Mm-hmm. Che la società va troppo veloce, c'è qualcuno, oppure capita qualcosa nel vissuto di quelle persone, per esempio perdono un compagno, o le ragazze che lasciano un compagno, anche questo, oppure gente che prima lo faceva per fare sport e poi si rendono conto che passano accanto di qualcosa, e quel qualcosa che ne parleremo dopo. Sì. E così gente che ha dei motivi, oppure anche, pensate, per raggiungere un compagno che lui fa il cammino. Allora, è accaduto, questo accade, un giorno ero a León, stavo prendendo un bicchiere di vino con degli amici pellegrini, perché per me fu una festa, soprattutto, certo. Dio amava il vino, dunque me lo godevo anche, non sono mica alcolica. E allora, dunque, parlando con quella gente, ho incontrato Luigi, Benedetto. Mm-hmm. Benedetto si chiamava. E allora vedevo quei due che bevevano vino e mi hanno spiegato che Benedetto, tutti e due venivano di Svizzera. Allora, uno faceva il cammino e prima ha detto al suo amico, prima di partire, magari io ti raggiungo più tardi. Ok, si sono raggiunti. Ma mentre Benedetto stava per raggiungere Luigi, ha dovuto cambiare treno a Irun, una stazione spagnola, e lì, pensate, tutti e due sono vigili del fuoco. Uh-huh. Uno cambiava treno e mentre cambiava treno ha salvato la vita del signore davanti a lui che era preso di un colpo di infarto. Wow, una storia forte. E ci sono tantissime storie così. E allora, dopo un po' di musica, torniamo a parlare del Cammino di Santiago, delle sue tratte, di perché lo si fa, e Tiziana ci racconterà un po' com'è andato il suo primo cammino, e poi vi svelo già, c'è pure riandato e l'ha fatto ben due volte. Che brano ascoltiamo? Ecco, e come volevo dirvi, stasera la scelta musicale viene fatta proprio da Tiziana, e per prima canzone ci vuole far sentire una canzone di Yannick Noah. Sì. E mi spiega un po' questa canzone, si chiama Osé? Sì. Giusto? Ose. Ose. E, sì. Spiegaci un po' perché ci tieni tanto a questa canzone, perché lo associ al tuo comino. Oh sì, perché Santiago è come un sogno per tantissima gente, ne ha sentito parlare, però fare il passo di fare il cammino, ognuno si trova delle ragioni per non farlo. Mm-hmm. E bisogna osare fare il passo. E per questo che quella canzone è stupenda per questo tema. Yannick Noah, bellissima canzone, bisogna osare nella vita, il cammino bisogna che si faccia e non che si sogna solamente. Tiziana il cammino l'ha fatto e ben due volte. E abbiamo detto prima che ci sono certe ragioni che vanno forte, insomma ci sono certe ragioni che spingono molte persone a fare il cammino. Volevo chiederti anche come si fa? Cioè, come ci si prepara, è una cosa che si fa da solo, in compagnia. Tu come l'hai vissuto? Beh, allora, bisogna distinguere, sarebbe che ci sono tre modi, penso, per fare il cammino. O da solo, o in gruppo, o in coppia. Mm-hmm. Beh, per me l'ho fatta da sola. Uh-huh. Beh, è un modo di fare, però prima di parlare di questo, che è un'esperienza fortissima quando si fa da solo, vorrei parlare un po' del gruppo e delle coppie, perché ne ho incontrate tantissime. Allora, penso che in gruppo, prima si inizia, tutti pensano, saremo in una buona atmosfera, tutto sarà perfetto, però camminando ci rendiamo conto che non è molto differente di quello che pensavamo. Sì. Perché siamo in gruppo. In gruppo significa essere rinchiusi su noi altri. Pensate che i pellegrini che sono fuori di voi, che possono anche, che bisogniamo incontrarli, questi non si avvicinano di un gruppo, è un po' più difficile. Il gruppo ha questa tendenza di essere un po' rinchiusi su se stesso. Mm-hmm. Allora, anche in gruppo è tutto un sistema sociale anche, perché c'è chi va più veloce, chi deve aspettare gli altri, chi deve un po', quel che ha bel carattere, quello che ne ha abbastanza, quello che vuole seguire. Dunque capita spessissimo su questo cammino che il gruppo si separa finalmente. È causa di tristezza. È una mancanza di solidarietà con gli altri membri del gruppo per tirare su quelli che vanno, che sono in difficoltà, eccetera. E per questo vi consiglio, mi permetto, non sono pagata dai film francesi, ma vi consiglio di vedere il film Saint-Jacques, la Mecca, con Pascal Legitimus, che tutti i pellegrini conoscono quel film e lo adorano di solito, perché è un film che fa ridere prima, che vi fa una bellissima serata, Saint-Jacques, la Mecca. E questo mostra i rapporti, i legami sociali che può esistere fra un gruppo durante il cammino di Santiago. Sì. Che ve lo consiglio. Allora, dunque, poi mi permetto di seguire parlando delle coppie, che ci sono tantissime coppie. Io vi dico, non voglio darvi fastidio, bisogna parlare realmente. Certo. Il cammino unisce o separa le coppie? È una cosa terribile, è che il cammino separa o unisce le coppie. Sì. E in quale modo? Allora, mi spiego. Prima si inizia, partiamo in coppia. Conosco il caso di un'amica che l'ha fatto con l'amico che aveva appena incontrato. Facciamo Santiago, facciamo le avventure, ok? Allora, dunque, loro camminano e poi si rendono conto che non vanno mica al stesso ritmo. Mm-hmm. Uno vuole andare più veloce, l'altro no. Allora, lì c'è il punto di fiducia. Sarebbe, ti lascio andare avanti e ti aspetto in quella città. E tu mi raggiungi. Si può fare così, Oppure si può anche fare l'altra scelta che unisce, che sarebbe: senti, ti aspetto, amore, aspetta, ok. Oh, aggiustare il ritmo. Ecco, aggiustare il ritmo. Cercare il compromesso, insomma, come si fa anche nella vita normale. In quel senso, il cammino è un po' come la vita di tutti i giorni. È come. Appunto, il cammino è una metafora della, della vita di tutti i giorni, però è una scuola grandissima che ti fa prendere coscienza di certe cose che nella vita non prendi il tempo di prendere coscienza. Sì. Te ne spiegherò più dettagli più avanti. Sì. E sì. Ovviamente il cammino è anche un'esperienza che affatica, sì. Sono giorni, giorni, giorni che si cammina, ecco. E per un attimo magari per coloro che ancora non hanno bene davanti agli occhi le immagini, sì. Per esempio, se uno parte da Roncisvalles è ancora in Francia, giusto? O siamo già entrati lì in Spagna? E quanti giorni, più o meno in quanti giorni o quanti chilometri si fanno e come si svolge questo cammino? Ho visto che tu hai portato un bellissimo documento, magari ci spieghi un po' tu che cos'è. Ok, allora parto adesso dal punto di vista pratico. Se avete nell'idea di fare quel cammino, le cose da avere assolutamente. Allora, all'inizio dovete prendere contatto con l'Associazione degli Amici di Santiago, Les Amis de Saint-Jacques. Abbiamo fortuna, questa associazione c'è ovunque, ok? Anche a Bruxelles. Sì, anche a Bruxelles, e quella di Bruxelles è fatta benissimo, perché il giorno in cui mi sono decisa per fare Santiago non ci conoscevo niente. Allora mi sono detta, ho visto su internet che c'era quell'associazione. Allora, quando ci sono stata, mi hanno accolta, vi mostrano un filmino con tutte le basi che il pellegrino deve sapere, perché Santiago da Saint-Jean-Pied-de-Port, dunque fino a Compostella, è circa 800 chilometri. Ecco, che è un bel cammino. È un bel cammino che vi fa 40 giorni. Allora, bisogna poter fare, anche allenandosi un po' più presto, non so, l'allenamento non è obbligatorio, però non si sa mai come il corpo reagisce. Bisogna poter tenere 20 chilometri o 25 al giorno. Prima non capivo, ma poi quando l'ho fatto a piedi, c'è un pezzo che si chiama la Messetta, che lì è nel deserto, non c'è né un paese, ci sono un intervallo di 17 chilometri senza un punto d'acqua. Dunque, ci sono certi tratti che dobbiamo fare i 20. Però parliamo più pratico, perché sennò mi perdo. Ecco, e faccio vedere, come dicevo, hai portato questo documento, ecco. Che è... La credenziale. La credenziale, allora. Ecco, che è pieno di... di sigilli? Di stampi. Ecco. E che cosa rappresentano? Allora, dunque, quando andate da quell'associazione degli amici, vi danno il credenziale. Questo è ancora più importante del passaporto, carta d'identità, è più importante di tutto. Sì. Perché... la credenziale è quello che vi fa, che fa la differenza fra un sportivo che fa trekking e un pellegrino. Ah, ecco. Ecco, dunque, per esempio, la credenziale ha tantissimi buoni aspetti. È che se la mostrate, per esempio, potete dormire per circa fra 7 o 10 euro a notte. Ah, che pensiamo che sul cammino, se lo fate per sport, per trovare dei luoghi per dormire vi costerà fra 20-30 euro. Ok, allora è un risparmio notevole che si può fare. Una carta quest credenziale è il passaporto che certifica che siete pellegrino. E poi, in ogni luogo dove andate, dovete avere i stampi. E quei stampi sono differenti, sono bellissimi l'uno dall'altro. Sì, io li posso vedere, ovviamente. Sì. I nostri ascoltatori non li possono vedere, ma magari apriamo un po' e che vi dico che sono veramente di diversi colori, hanno delle diverse immagini, la maggior parte ovviamente religiosi, molte conchiglie, non è una sorpresa. È anche un bel ricordo, immagino, che anche per te rivedere queste stampe e magari nella tua mente rifare il cammino. Puoi magari prenderne uno, cioè raccontarci un po' di un tratto del tuo cammino che ricordi particolarmente? Ah sì, ne conosco uno. Prima di raccontarvelo bisogna che preciso che i stampi vi permettono anche di avere il diploma. il diploma che si chiama del pellegrino, che si chiama la Compostella, che ricevete a Santiago quando arrivate. Poi quel che è meraviglioso è che ogni stampo è un ricordo di una cosa che avete vissuto. Dunque, allora, torno da quel che mi hai chiesto. Allora, beh, un attimo, perché sì, sì, fai sto guardando. Oh là là, ne ho tantissimo. Vorrei parlare di un rifugio che sto cercando, che si chiama il rifugio San Nicolás. Okay. Penso che si chiama San Nicolás. Allora, dove è scappato questo? Beh, ormai, ecco. Allora, vi racconto. San Nicolás è un rifugio piccolissimo, che funziona come 500 anni fa. Allora, siete nella Meseta, dunque, quel pezzo di deserto. Allora, sono arrivata, non ne potevo più. Prima ero arrivata, questo bisogna che lo racconto. Prima volevo passare la notte assolutamente dove mi hanno consigliato, che si chiamava un rifugio San Antonio. Il rifugio di Sant'Antonio sarebbe. E quel rifugio adesso è in rovina. Era una chiesa che adesso è rovinata, una vecchissima chiesa, dove c'è tutta la costellazione sopra. Pensate, potete anche dormire sotto le stelle d'estate. Bello. Allora lì ho incontrato la signora che si chiama, dunque, è l'ospitalera si chiama, perché c'è un'altra organizzazione attorno ai pellegrini, organizzazione di gente che fa benevolenza, di accoglienza e che prende cura dei pellegrini. Ecco. Sono gente che vengono che vengono da tutta Europa per occuparsi specialmente dei pellegrini sul cammino di Santiago. Cioè loro stessi? Sì. Si trasferiscono dal proprio paese per sostenere chi fa il cammino. Tutti i rifugi, sì. Per tutti i rifugi, per esempio, per un rifugio ci sono svedesi, un altro rifugio ci sono inglesi, un altro. E così parliamo, incontriamo ospitalieri di tutti i paesi d'Europa per prendere cura di quei pellegrini. Dunque torno, arrivavo a Sant'Anton, però il problema è che sono andata un po' troppo veloce, erano le 10 di mattina. E la signora mi ha detto, ma guardi, non aspettare, si chiamava Geraldine di Francia, e mi ha detto, ma dai, non aspettare, che le 10 di mattina non passerai la giornata. Allora, vai più avanti, se a te ti piace i vecchi rifugi, vai fino al rifugio San Nicolás, che era 25 chilometri più lontano. E tu li hai fatti, insomma, nello stesso giorno? Beh sì, ma era durissima e lei mi ha detto devi andarci. Ma prima di partire mi ha mostrato una foto di due ospitalieri che avevano creato San Anton. Luis e Luigi. E quei due ragazzi erano ospitalieri lì, precisamente. E nel frattempo, durante l'anno, loro andavano in un rifugio, ma a Calcutta, ad aiutare i poveri. E un giorno, andando a Calcutta, hanno avuto un incidente di treno, che sono stati uccisi. Beh, mi sono detta, beh, sono triste, bisogna seguire anche il cammino. Ogni luogo, ogni rifugio ha la sua storia. Certo. Parlerò dopo di Luis e Luigi. Ho seguito il cammino 25 chilometri dopo, sono arrivata verso le 5 e le 6, ero sfinita, non avevo più piedi, non ne potevo più, ero sulla pancia. Allora, arrivando, ho visto quel rifugino che è stato rinnovato e quelli che tenevano quel rifugio erano italiani di Torino. Ah, che bello, insomma. No? Ecco, e mi hanno spiegato che loro erano gli amici del cuore di Luigi e Luis. Che erano, e questo era incredibile, cadere in quel, precisamente mi ero fermata in quel rifugio e Geraldine, lei non era al corrente che gli nuovi ospitalieri erano amici del cuore dell'altro. Insomma, sono cose che non si dimenticano e che non si spiegano. Ecco, allora continuiamo a parlare del cammino e di questi bei racconti delle tue esperienze. Il cammino di Santiago, ma prima di farlo ascoltiamo un altro pezzo che tu hai scelto. E raccontaci un po', si chiama Looking for Something. Cioè, Perché questo è proprio il punto, punto comune fra tutti i pellegrini, è che partiamo e non sappiamo perché, non sappiamo cosa cerchiamo, ma C'è una cosa specialissima che ho sentito che, mentre camminavo da sola. C'è gente che mi ha detto, ma la fai sola, non hai paura. Ho detto, beh, paura non l'ho mica scritto nell'agenda, dunque non ho paura, no. Ma anche se ero sola fisicamente, non mi sentivo mai sola in un secondo. È come se camminavo con una presenza. La gente mi crede o non mi crede, questo no. Beh, ognuno ha la sua idea, ma bisogna sperimentarlo. Non so se Dio, se una... non capisco, ma non mi sono mai sentita sola un secondo camminando su quel cammino. È una cosa straordinaria, bisogna sperimentarla, essere da solo, camminare da solo per poter sperimentarlo. È una cosa... non so se si chiama Cristo, non so se si chiama Dio, si chiama Maria, o si chiama un santo, o Santiago, o non so. Ma quella presenza c'era e mi faceva sentire... con un gran sollievo e beh, fu molto divertente perché ogni giorno c'era una sorpresa, non so se è grazie a quella presenza, ma comunque camminiamo, cerchiamo qualcosa. La ricerca, ecco, che accomuna tutti i pellegrini, sì. Looking for something, sì, di Era. Era, che mi piace molto. Looking for something, Era su Radio Alma, i colori dell'anima. Ogni lunedì sera siamo con voi dalle 21 alle 22. Se ci volete scrivere, lo sapete, colori.anima@gmail.com, colori.anima@gmail.com. E stasera con noi, lo sapete, abbiamo Tiziana, un'esperta pellegrina, che ci ha raccontato già moltissimo. No, l'hai fatto due volte, sono 800 chilometri di cammino, è una cosa... Non si è mai esperto pellegrino, Ecco, allora bisogna continuare a imparare anche... Quando si diventa una pellegrina esperta? Pellegrina esperta, guardi che trovo che quella parola non esiste perché non siamo mai esperti. Allora, penso che fai allusione al materiale che bisogna avere. Sì, parliamo un po' di quello. Cioè, sì. Un pellegrino quando parte, con che cosa parte? Ecco, ma cioè, sono quelle domande pratiche che a me mi vengono spontanee. Cioè, lo zainetto, il mitico zainetto da trekking o da pellegrinaggio, con che cosa ci mettiamo dentro? Allora, bisogna essere il più leggero possibile, ma però col necessario. Dunque, questo... Che cosa è necessario? Ah, questo dipende dalla gente, perché ognuno ha una personalità differente, ognuno ha un vissuto differente, e quel necessario di uno non è mica il necessario dell'altro. Però mi immagino che con un sì, visto che si devono fare tanti chilometri, il peso sulle spalle non può essere troppo, che cosa non si porta? Allora, il zaino deve avere come peso massimo, normalmente, girare attorno ai 10 kg. Mm-hmm. Allora, nello zaino bisogna... io non faccio mica pubblicità, me lo dico, ho preso delle cose dei negozi di sport, io sono andata al Decathlon, per non dirlo, scusa, non è pubblicità, ma l'ho detto. Allora, dunque, ho preso... bisogna assolutamente avere delle robe che si seccano velocemente. Ah, i vestiti? Sì, ecco. I vestiti, perché se li prendete di cotone possono mettere 2 o 3 giorni ad asseccare. E dunque bisogna fare, io ho fatto la regola dei 3, sarebbe per i pantaloni meglio avere i pantaloni che possono anche fare da short. Ok, sì, così dunque, si risparmia un pezzo. Ecco, e anche quando c'è pioggia è leggerissimo, dunque. Allora, 2 pantaloni da short, poi ho preso, diciamo, 2 calzettini, ma dei calzetti che sono speciali da trekking, perché possono, ma anche lasciano passare l'aria, il sudore, okay, è buonissimo. Poi 3 t-shirt, dei t-shirt di sintetica, di roba che si assecca velocemente. Perché così ogni sera quando si arriva nel rifugio c'è il rituale del lavaggio, della preparazione anche, insomma ci si prepara per il riposo ma anche già per il giorno dopo. Comunque è una cosa abbastanza intensa. Beh, il pellegrino è un militare, bisogna dirlo, è un militare. Perché io all'inizio la facevo con comodo, poi ho incontrato un pellegrino che mi ha imparato ad alzarmi alle 6, Perché? Perché io lo facevo d'estate, dunque già alle 10 di mattina c'è un intervallo fra l'ora solare e l'ora del giorno, è qualcosa di abbastanza speciale, è un gioco di temperatura. Dunque fa che già alle 10 faceva 25-30 gradi. Caldo, eh? E allora bisognava assolutamente alzarsi presto. Allora, dunque, mi alzavo verso le 6, alle 6 e mezza devo già camminare, anche nel buio. Prendevo una luce, cioè è praticissimo una luce, se si vuole fare lettura o scrivere mentre gli altri dormono. Poi partivo così. Allora, poi bisogna arrivare al rifugio verso mezzogiorno e mezzo, luna, idealmente. Dunque sarebbe più o meno 20 chilometri da fare. Camminiamo al 4 all'ora normalmente. Ok. Dunque bisogna fare fra 20 e 25, anzi prima delle 3 bisogna arrivare assolutamente. Quando si arriva? C'è la siesta spagnola. Certo, dunque, bisogna rispettarlo, immagino. Dormono dalle 2 alle 5. È una cosa orrenda. Non ti piace? Beh, è che quando arriviamo abbiamo una fame. Però bisogna aspettare le 5, questo è difficilissimo. Comunque bisogna sempre prevedere prima un po' di cibo per arrivare e già prepararsi qualcosa. Poi di sera si fa le compere per l'indomani. E questa cosa si fa da soli o lì comunque quando si arriva ad un rifugio ci sono altre persone, dipende un po' da rifugio a rifugio. E si cucina insieme o si va comunque... Sì, è stupendo, perché tutti fanno la stessa cosa. Dunque, quando arriviamo a un rifugio, soprattutto sul cammino francese, perché gli altri cammini, se ci sono meno pellegrini, avete più posti, nei grandi rifugi, mi ricordavo quando sono arrivata a Saria, c'era una fila, avevano messo tutti i zaini e c'era una sessantina di zaini prima di me. Ah. E il rifugio contava 80 posti, dunque per fortuna l'avevo, però i pellegrini, anche, chiedo scusa di parlare così, ma i vecchietti che arrivavano 83esimo, non c'era più posto. Lì sì. Come funziona? Ho sentito che succede, e magari tu lo puoi confermare o smentire, che tu vero pellegrino o pellegrina arrivi al rifugio e appena prima di te entra qualcuno che è sceso dal taxi, che ha pagato il tassista, e che sale e che prende magari l'ultimo posto e tu ti trovi a dormire fuori, che tra l'altro può essere un'esperienza bellissima, ma comunque c'è chi prende il tuo posto senza aver fatto il vero cammino. È una cosa che succede regolarmente? Oh sì, regolarmente. C'è come una rabbia anche fra quella gente. Bisogna fare anche la differenza. C'è gente che per esempio ha problemi di schiena. Come ho incontrato Pepi, che è la mia amica del cuore spagnola, che è una donna che ha 65 anni, artrosi dalle ginocchia, e ha voluto fare anche tutto il cammino. Ecco. Però poverina, arrivata verso Puente la Reina, ha avuto un problema, ha dovuto dare il suo zaino a un taxi, perché ci sono reti di taxi che prendono i zaini. Però bisogna vedere se lo fanno per ragioni di salute, che la persona cammina, è una cosa ovviamente, questo sì. Logico. Ma quando sono arrivata a Porto Marina, tutti i veri pellegrini erano 300, lo giuro, ho fatto anche foto, erano 300 a dormire sul suolo in un ginnasio, mentre c'erano 3-4 pullman di pellegrini che scendevano per fare i 200 ultimi chilometri, perché se si fa i 200 ultimi chilometri si può avere il diploma. Ecco, e allora vorrei utilizzare questa occasione, dove abbiamo parlato insomma di due tipi di vivere il Cammino di Santiago, per passare un attimo ho fatto prima di questa puntata un giretto su internet, e per esempio sono capitato su santiago.pellegrinando.it, un sito molto interessante, e lì ci sono molte considerazioni sul cammino, e una di queste è di Ruggero, che parla un po', non vi leggo tutto il pezzo, comunque lo troverete lì, che parla un po', fa questo paragone tra i veri pellegrini e diciamo i turisti. Lui dice in questo suo contributo: a molti poi quell'atmosfera mitica del cammino si trasforma in una specie di età dell'oro, tanto da non volersene distaccare quasi più. Infatti cominciano a ripercorrerlo, magari cambiando in volta itinerario, diventando così inconsapevolmente quelli che io definirei come gli abbonati del Cammino di Santiago. E il suo pensiero è molto più elaborato, comunque il succo del suo contributo è questo, cioè si fa il cammino magari poche volte, ma comunque facendolo nel contesto di una ricerca interiore, sì. Oppure piace tanto fare il trekking, sì. Di fare sport, e insomma il terreno è bellissimo, le tratte sono veramente fantastiche, e quella è un'altra cosa, sì. Senza giudicare, però comunque si fa questa domanda, e volevo farla anche a te, cioè come la vedi questo? C'è un conflitto o tu come l'hai vissuto? Fra i turisti e fra i pellegrini, mi dici? Sì, è anche questo, e magari di quelli che lui chiama gli abbonati, cioè di non farlo più come un'esperienza spirituale di magari una, due, tre volte, ma comunque come una cosa regolare e come un viaggio, una vacanza, il trekking, sì. Perdendo un po' quello spirito del... Diciamo che quando facevo il cammino ho incontrato della gente che camminava con la radio, che andava, che disturbava tutti. Mi sono detta, quella non ha capito niente. Beh, poi c'è un'altra categoria di gente che adesso fa la sua apparizione sul cammino. Quella parte di pellegrini diventa sempre più importante ogni anno. Per me, io penso che è un peccato, però ognuno la pensa come vuole, sono gli Ironman, sono incredibili, è della gente che può anche avere una cinquantina, sessantina d'anni. I pellegrini normali fanno più o meno 20-25 km al giorno, poi siamo già sfiniti. Loro no, fanno fra i 40 e i 50 km al giorno. Ma sono super allenati questi. Super allenati, e lo fanno per il cammino, però io sono un po' triste per quella gente, perché si perdono una cosa stupenda. Mentre i pellegrini, loro sono anche degli Iron Man, però dello spirito, del cuore. Sì, perché diciamo che loro non si possono godere diciamo l'esperienza a pieno, non hanno più il tempo, devono correre così tanto che non hanno più quel tempo per riflettere e per vivere il cammino. E volevo un attimo, perché abbiamo detto che tu l'hai fatto due volte, e un motivo, se ho capito bene quando ne abbiamo parlato prima, il motivo perché tu l'hai rifatto è perché la prima volta hai fatto un pezzo in bicicletta, e volevi farlo la seconda volta tutta e a piedi. Raccontaci un po'. Sì, allora, io all'inizio, dunque, come vi avevo detto, avevo lasciato tutto, stavo per iniziare un'altra vita, però cercavo le basi, diciamo così. Allora, dunque, ho iniziato a fare quel cammino a piedi da Ortes, che è una bellissima città nel sud di Francia, prima del paese, no, è nel Paese Basco. Allora, anche a 100 km di Saint-Jean-Pied-de-Port, perché a Saint-Jean-Pied-de-Port si inizia direttamente la montagna, e io volevo allenarmi un po' prima. Ricordiamo che il pezzo dove confluiscono tutti... Sì, tutti i cammini d'Europa confluiscono a Saint-Jean, ma c'è anche un altro cammino che è del Saint-Port, che ne parlerò dopo. Allora, iniziavo a fare quel cammino a piedi, ho fatto l'allenamento, sono arrivata a Saint-Jean-Pied-de-Port, e ad un tratto ho incontrato un pellegrino francese. Ecco, che ti ha corrotto, ho capito bene? Mamma mia, questo era il mio... bisogna dirlo, rimango seria. È un bellissimo ragazzo, assolutamente stupendo. Parlo alle donne, immaginate se incontrate l'uomo ideale sul Cammino di Santiago, vi state perdendo... insomma. Ecco, e lui che cosa ti ha chiesto? Allora, dunque, abbiamo attraversato dunque le montagne, lui era in bicicletta, siamo arrivati a Pamplona e lui mi ha chiesto se volevo seguire con lui comprandomi una bici o volevo andare per fatto mio a piedi. Ecco. Io mi sono detta, se incontro Brad Pitt sul cammino io lo seguo, scusa. Ecco, e tu l'hai seguito? Ho comprato la bici, l'ho seguito, ecco. Però così il cammino faceva solo due settimane. Sì. E l'anno dopo hai pensato, ora lo rifaccio? Da sola, ecco, a piedi. Per essere in fase con me stessa mi sono detta, senti Chiara, che adesso, vi dico solamente che l'appello di Santiago per rifarlo l'ho sentito mentre facevo la doccia. mi sono detta, ma guardi cara che il cammino a piedi non l'hai ancora fatto, dunque questo è il momento. Allora sono ripartita, ecco. Siccome pensavo che, beh, io me la pensavo che era il mio viaggio da donna sola, con se stessa, perché avevo bisogno di nuovo di fare un po', di prendere distanza, di essere in fase con me stessa. Ho deciso di partire da Lourdes e di iniziare dall'altro lato dei Pirenei, che sarebbe il Saint Port, che è la seconda porta per il cammino di Santiago, un po' più lunga, ma bellissima, perché attraversiamo i Pirenei e fu una zona stupenda, stupenda, bellissima. E poi si arriva ai Fields of Gold. Oh, e sì. Passiamo alla prossima canzone. Con piacere. Ecco, veramente, come in questa canzone di Sting e The Police, sì. Giusto? Sì. Cioè, perché ti piace tanto questa canzone? Raccontaci un po'. Beh, mi piace tanto perché quel cammino d'estate stavo attraversando degli immensi campi d'oro, di come si dice, quel che si fa per fare il pane, di... In francese si dice di grano, ecco, scusa, di grano. Allora, è come se era oro, quando c'è vento è bellissimo, quando c'è sole è stupendo. E beh, proprio camminando nel più oro di così. Ecco, un ricordo che non si dimentica più. Ecco, appunto. Sting and the Police. Ecco. Fields of Gold. Purtroppo siamo... quasi alla fine di questa bella puntata e prima di concludere con un ultimo pensiero da parte di Tiziana, volevo condividere con voi una breve poesia che si trova anche questa sul sito che avevo menzionato prima, che è Santiago, adesso non devo sbagliare, santiago.pellegrinando.it, e fa così: camminando si apprende la vita, camminando si conoscono le cose, camminando si sanano le ferite del giorno prima, cammina guardando una stella, ascoltando una voce, seguendo le orme di altri passi, cammina cercando la vita, curando le ferite lasciate dai dolori, niente può cancellare il ricordo del cammino percorso. E allora chiedo a te, Tiziana, qual è il ricordo del tuo cammino percorso che non si può cancellare? Allora, per finire, beh, io racconterei il ricordo quando ero a Compostela, che ero arrivata e c'è un signore, stavo mangiando in un ristorante, quel signore ha messo il suo zaino nella sedia accanto e poi mi ha detto: sentite signorina, qua ho un libro per lei. Non chiedermi niente, un libro per lei, prendetelo. Ma vi devo scrivere una frase, assolutamente prendetelo. Ok, mi ha scritto qualcosa, poi quel signore è scappato. Ho letto, è una parola stupenda che mi ha detto, che è pellegrina. Allora, adesso che tu hai trovato la luce, cosa ne farai? Sei nel mondo buio, seguirai il tuo cammino nel buio o porterai la luce ovunque tu sia?